come sono meschini i tuoi rancori, nutriti di falsità. Strappa da te la vanità, avido di distruggere, avaro di carità. Strappa da te la vanità, ti dico, strappala. Ma avere fatto in luogo di non avere fatto, questa non è vanità. Avere con discrezione bussato perché un blend aprisse, aver raccolto dal vento una tradizione viva o da un bell'occhio antico la fiamma inviolata, questa non è vanità. Perché qui l'errore è in ciò che non si è fatto, nella diffidenza che fece evitare.